La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Giuseppe Petralia, sono un medico radiologo dell'Istituto Europeo Oncologico e ho 37 anni. È una giornata di sole. Nell'aria c'è un profumo insolito per Milano. Il vento ha spazzato via le nubi, anche qui, alla periferia, in fondo a Via Ripamonti, sede dell'OIEO, l'Istituto Europeo di Oncologia. Una giornata faticosa per chi entra in questo posto, carico di aspettative e di paura, perché qui, a spingere le porte girevoli per entrare, ci sono persone che devono fare i conti con un tumore. Dall'altra parte ci sono i medici e tra loro c'è un ragazzo. Il viso ricorda l'attore Locascio e infatti, come lui, anche questo medico viene dalla Sicilia. La sua è una storia bellissima ed è una bellissima prima volta. Vorrei vedere sempre meno i medici che non lavorano, che non hanno passione al loro lavoro. Quella del dottor Petralia è una prima volta che sa di futuro. Perché la sua scoperta, messa a punto con grande caparbietà, potrebbe cambiare il futuro di tutti noi e salvare centinaia di vite. Lo slogan che riassume questa prima volta è: insieme potremo diagnosticare un tumore quando è ancora più piccolo del punto alla fine di questa frase. A curare la macchina capace di fare questo è proprio il dottor Petralia e questa è la sua prima e più importante volta. Questa è la storia che vi vogliamo raccontare. Sì, io non voglio prendermi i meriti di nulla, non è nessuna invenzione, però l'utilizzo e l'applicazione è abbastanza innovativa, nel senso che la tecnica di diffusione che è alla base di questa risonanza diffusion whole body è una tecnica nota da 25 anni, ma era applicata prima solamente in oncologia. Poi, circa 10 anni fa, nella comunità scientifica europea abbiamo iniziato ad applicarla nei tumori, in oncologia, perché c'è un concetto fisico alla base, che queste immagini prodotte, le immagini di diffusione, consentono di vedere più brillanti i tessuti ipercellulari. E i tessuti ipercellulari hanno molta probabilità di essere tessuti maligni. Quindi noi alla fine abbiamo un'immagine di risonanza magnetica in cui vediamo più brillante, in maniera abbastanza semplice e riconoscibile, l'area più sospetta. E questo ha aperto nuove prospettive. Con la tecnologia che era disponibile circa 10 anni fa, era pensabile farla solamente su un segmento, perché era molto lunga la durata di tutto. E fino a quando, tra il 2007 e il 2008, nei miei viaggi a Londra, dove andavo a imparare, abbiamo visto la possibilità di poter estendere questa tecnica di diffusione a tutto il corpo. Allora, in maniera quasi clandestina, col nostro fisico, che è un canadese che è venuto a lavorare qui, lo abbiamo, diciamo, attratto per lavorare qui a Milano, siamo riusciti a mettere in piedi una diffusione nell'intero corpo. Abbiamo fatto il nostro paziente zero nel novembre 2009 ed era un paziente alto 1,94 m. Voi immaginate quanto è durato quell'esame? Perché avete scelto un paziente? Perché era il primo disponibile e abbiamo iniziato con i pazienti che secondo noi ne avevano più bisogno ed erano ai tempi i pazienti col melanoma. Che il melanoma da metastasi molto piccola in sede difficili da raggiungere perché possono essere sottocutanei, quindi difficili da vedere con PET, TAC, ecografie. Con questa tecnica pensavamo che potessimo dare un reale aiuto. Tra l'altro spesso sono colpiti da melanoma i giovani e quindi fare un monitoraggio frequente di un giovane con una PET e una TAC è una cosa veramente spiacevole. E quindi abbiamo iniziato con loro. E io non scorderò mai il primo paziente, che adesso sta benissimo, tra l'altro, alto 1,94 m, quindi una risonanza total body in un paziente 1,94 m è durata tantissimo, essendo il primo esame ovviamente è stato complesso, però lui è stato il paziente zero, quindi lo ricorderò sempre. Da lì ci siamo estesi poi alle donne gravide col tumore, perché era l'altra categoria che veramente richiedeva il nostro aiuto. Poi questa applicazione, questa tecnologia è stata sviluppata, ma non solo da noi, ma anche in altri centri. Gli altri centri ad alto volume dove viene fatta sono a Londra, ci sono due ospedali, il Royal Marsden e il Mount Vernon Hospital col professor Padani. Insomma, con la collaborazione con questi centri abbiamo esteso questo approccio anche a quasi tutti i tipi di tumore, perché ci sono dei vantaggi clinici. E i dati sono disponibili in letteratura, quindi non è nulla di pionieristico, sono dati disponibili. Io quindi mi sono occupato di introdurre questa tecnica, di sviluppare questa tecnica qui all'Istituto Europeo Oncologico, e forse la peculiarità è che noi per primi probabilmente abbiamo pensato qui in Italia a offrirla ai soggetti sani per prevenzione. Ma questa macchina è molto costosa. È molto costosa, ha detto bene, costa circa il doppio rispetto a una macchina, diciamo, commerciale. Questa è una macchina che è disponibile da poco in commercio e per cui per il nostro scopo richiede una configurazione specifica. Non ce ne sono in Italia, ne hanno appena una installata a Londra, sono andato proprio a seguirne l'installazione, l'hanno installata in agosto. Ce ne sono un paio in Germania, ce n'è una negli Stati Uniti e questa è una macchina che ci consentirebbe di spostare più in là il limite della nostra ricerca per darvi una misura rispetto alla nostra che è già a quella attualmente disponibile su cui facciamo i nostri pazienti, che è già una macchina eccellente, rispetto a questa è il doppio più potente, ci consente di fare immagini di una qualità, di una risoluzione spaziale circa doppia. Consentirebbe di dimezzare i tempi di questo esame, quindi migliorerebbe il comfort del paziente, quindi io ritengo che potremmo fare un passo in avanti nella qualità delle nostre diagnosi. Sarebbe ambizioso lanciare un progetto di prevenzione a una fascia più ampia con lo scopo di ricerca e quindi stabilendone i modi e definendone i modi in futuro. Stando qua fuori, io ho sentito parlare tantissime persone in napoletano, in siciliano. Non è strana questa cosa che le persone debbano spostarsi, insomma, che non ci siano dei riferimenti in alcune zone d'Italia, cioè che uno oltre ad essere malato debba anche spostarsi e far spostare la famiglia. Questa è una domanda che prevede mille risposte. Io le posso dire che è un po' normale che in un centro di riferimento come il nostro alla fine vengano persone da parti un po' diverse. Noi abbiamo pazienti anche stranieri che scelgono di venire qui perché il nostro focus è l'oncologia e quindi proviamo a offrire al paziente tutto dall'A alla Z il massimo possibile. Sarebbe auspicabile che siano sempre di più i centri di riferimento in più parti d'Italia. La prima volta. I rumori dell'ospedale, il sole che splende attraverso le finestre dell'Istituto Europeo di Oncologia, i pazienti che arrivano da ogni parte d'Italia. Questa è soprattutto la prima volta del dottor Giuseppe Petralia, nato a Catania 37 anni fa. Una storia la sua che racconta bene anche il nostro paese, perché la prima volta di questo medico, radiologo, ha inizio quando sceglie e sceglie di fare questo lavoro con passione, con dedizione, con amore, un amore che lo porterà a lavorare a un progetto di diagnostica che è il futuro e che porta l'Italia in vetta. Lo strumento in questo momento più innovativo per la prevenzione dei tumori che stiamo sperimentando e testandolo io da un po' di tempo è la diffusion whole body, che è una tecnica innovativa di risonanza magnetica che consente di visualizzare l'intero corpo senza radiazioni e senza mezzo di contrasto. Ci siamo fatti una lunga esperienza con centinaia di esami sui pazienti oncologici, quindi quelli col tumore. Iniziando a eseguire questo esame nei tumori più difficili, abbiamo visto che questo esame è estremamente sicuro ed è estremamente performante perché ci consente di vedere lesioni molto piccole. Quindi, dato che ha un costo biologico pari a zero, abbiamo pensato di offrirlo ai soggetti sani per la prevenzione, perché ha un costo biologico zero e ci fa vedere lesioni molto piccole. E questo apre nuove prospettive nel campo della prevenzione, nel senso che le tecniche già disponibili sono eccellenti e vanno sempre seguite, la mammografia nelle donne, ad esempio il Pap test, il PSA, però queste sono metodiche semplici, ottime, ma che lasciano scoperte molti organi. Questo tipo di risonanza magnetica potrebbe andare a coprire in questa fase tutti gli organi lasciati scoperti dalle tecniche di screening tradizionale. Inoltre è una tecnica, come diceva lei, che può essere applicata anche alle donne in gravidanza, mentre adesso, per esempio, non si può. Esattamente, questo è un esempio che cito spesso per dimostrare quanto questa tecnica sia sicura a costo biologico zero. Siccome l'Istituto Europeo Oncologico è un centro di riferimento per l'oncologia, vediamo, ci vengono riferiti casi di tumore un po' più difficili, come ad esempio le donne che sviluppano un tumore durante la gravidanza. Queste donne, queste pazienti, sono un problema diagnostico per ogni medico perché il tumore quando insorge in gravidanza, spesso un tumore mammario, si presenta purtroppo alla presentazione a uno stadio avanzato e quindi è necessaria una stadiazione completa, un controllo completo dei polmoni, del fegato e dell'osso, che è molto difficile da fare con tecniche tradizionali in una donna incinta perché è meglio non esporla a radiazioni, è meglio non somministrare a mezzo di contrasto. Con questa tecnica è possibile seguire in maniera sicura una stadiazione accurata. Quindi l'abbiamo utilizzato in una fase iniziale anche su queste donne. Perché ha scelto oncologia? E perché io credo che fare il medico alla fine significa aiutare qualcuno. E penso che in oncologia è percepibile quotidianamente l'aiuto che possiamo dare alle persone che trattiamo. Lei da quanto è oncologo, cioè da quando ha raggiunto la specializzazione? Io sono radiologo e mi occupo principalmente di oncologia e mi sono specializzato nel 2005. Sì, 2005. Si ricorda insomma quell'anno, cioè com'è stato il contatto con le prime persone? Allora, ho iniziato la mia formazione all'OIEva appena dopo la laurea nel 2002 e sicuramente l'impatto è forte perché da una laurea che è generale, quindi noi vediamo nel nostro percorso universitario, vediamo tutti i tipi di pazienti. In genere in un ospedale standard, diciamo, la percentuale dei malati gravi è relativamente bassa. All'OIEO ci confrontiamo quotidianamente con patologie serie, con storie a volte difficili. E quindi pensavo che l'impatto emotivo pensavo che sarebbe stato forte. In effetti l'impatto emotivo è forte, ma al contrario, nel senso sono persone che pur avendo patologie serie conducono in molti casi una vita normale e hanno tanto da insegnare. Allora, quello che mi è venuto in mente era immaginando lei all'inizio del suo percorso professionale anche il momento in cui deve comunicare a una persona uno stato di malattia. Noi siamo qui per indicare un percorso terapeutico e quindi è giusto comunicare le cose come stanno, ma è giusto anche, noi siamo qui proprio per indirizzarne la terapia e spiegare in maniera dettagliata e a volte decidere assieme al paziente quali sono le possibili opzioni terapeutiche che possono essere la chirurgia, la terapia, il controllo e quindi questo è un posto in cui si viene per trovare una soluzione o per provare a trovare una soluzione. A 37 anni, che cosa si aspetta, diciamo, dalla medicina? Sono estremamente ottimista perché io credo che i prossimi anni ci riserveranno grandi sorprese, grossi passi in avanti, io sono convinto che verranno nel campo della prevenzione, perché ci sono alcuni aspetti che sono legati alla tecnologia che si stanno evolvendo in maniera molto veloce. Il nostro compito, il mio compito da medico è tentare di capire quanto i progressi della tecnologia poi possono avere un impatto reale sulla clinica e sui pazienti. E quindi questo è lo scopo della mia ricerca nel campo dell'imaging. Quindi lei continua a fare ricerca e contemporaneamente applica la sua conoscenza? Costantemente ricerca e pazienti, non mi stacco mai dalla realtà dei pazienti, ne vedo tantissimi ogni giorno e siamo io e tutti i miei colleghi che lavorano qui dentro costantemente in contatto con i principali centri di ricerca europei perché il sapere, per fortuna in questa epoca in cui la comunicazione è semplice, il sapere è abbastanza comune e condiviso e questo è un vantaggio per la ricerca. Il costo per avere un'apparecchiatura per la risonanza magnetica di ultima generazione è altissimo, ma sono altissimi anche i benefici che permetterebbero di individuare, senza radiazioni né mezzo di contrasto, la maggioranza dei tumori, anche di soli 3-4 mm. In quei casi i tumori possono essere trattati con il minimo degli effetti collaterali e il massimo di possibilità di guarigione. Quando a domenica fa un giro, capelli nevo nevo vestio. Qua madama madama testo, belli in che festa. Chi ti apreva processione, la Teresina do Teresun. Tutta mia effigie di Dio, capelli da lo. La prima volta termina qui. Se ne volete sapere di più, andate a vedere il sito dell'OIEO. Se volete riascoltarci, andate invece sul nostro sito, il sito di Radio 24, oppure venite a trovarci sulla pagina Facebook Radio 24, la prima volta. L'indirizzo per scrivermi è laprimavolta@radio24.it. Un ringraziamento particolare in regia a Gianmarco Ferronato. Ciao a tutti e buona domenica da Cristina Carpinelli. Deixa chacanuz, encainhamos, ele é terça-mã. É ponte gelo que mostra no gelo.